mia pelle, quasi certamente mi ha colpito un fulmine. Gita in barca dentro un paradiso, nulla mi rinfranca più del suo sorriso, e nemmeno il sole mi fa delirare, e nessuna gomma potrà cancellare chi mi ha spento il lume. E per lustro il cielo suo per insavire, ma poco da fare mi ha colpito un fulmine, e a parte una rondine non ricordo niente e rimango immobile. C'è un grumo di sale qui nella mia mano, forse il mio tormento che si scioglie piano, ma se stringo il pugno mi percuote il dubbio, batte il suo martello sopra la mia incudine, colpi di inquietudine. E se il suo distacco mi fa andare avanti, sono sotto scacco, non ci sono santi, tremo le meningi, mi fa male i denti, cerco nella mente, sfoglio le sue pagine, ma ogni lampo è labile. E seppure il vento liscia le sue piume, vago nel sentiero solo tra le brume, ma ho portato un secchio, mi potrà servire, dal momento che mi ha già colpito un fulmine verso le sue lacrime dentro il mio carniere, e bevo un bicchiere. Sono in alto mare, cerco un salvagente, ma di ritornare non mi importa niente. Poi del tutto vano risalire il fiume, forse veramente mi ha colpito un fulmine e non sono niente, solo un corpo e s'anime.